in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani che, come potete immaginare, sono ancora ricchissimi di ricordi e di analisi sulla vita di Umberto Eco, che è scomparso venerdì alle 10:30 circa, se ne è avuta poi notizia verso mezzanotte, appunto tra venerdì e sabato. Cominciamo però dal Sole 24 Ore che, oltre ad avere un palchettone, così si chiama in gergo, la fascia sotto la testata che è tutta dedicata alla domenica del Sole 24 Ore, in cui c'è tantissimo spazio, copertina compresa, per Umberto Eco, ma lo vedremo dopo. Il titolo vero e proprio è dedicato al bail-in, che sapete, l'Accademia della Crusca un po' bacchettato chi usa questi termini inglesi. Sostanzialmente, comunque, bail-in vuol dire salvataggio dall'interno delle banche, cioè quando una banca è sull'orlo del fallimento deve essere salvata dal sistema bancario stesso e non dallo Stato. Questa è la regola entrata in vigore il 1° gennaio, perché entrava in vigore, è stata preceduta dal salvataggio delle famigerate quattro banche, tra cui Banca Etruria, con tutte le conseguenze che sappiamo. Ebbene, sembrava cosa fatta, in realtà sul bail-in non è cosa fatta per niente, se ne ricomincia a parlare, e così il titolo del Sole 24 Ore: banche, così l'Europa si divide sul bail-in, super holding, leggi ad hoc, tipologie innovative di titoli. L'inchiesta di Alessandro Praterotti, che poi trovate le pagine 2 e 3, proprio che adesso vedremo, perché appunto è la copertina e poi le pagine 2 o 3, spiega come le regole poi vengano applicate in modo diverso. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore anche le novità sul trasporto locale, c'è una parte che poi viene anche richiamata da molti altri giornali, che è il fatto che se un autobus locale, il trasporto locale ritarda più di 30 minuti si ha diritto a un rimborso. Ma forse la vera novità della riforma del Rio che è entrata nel decreto Madia sulla pubblica amministrazione è che ci saranno nuovi bus e gare, quindi sì, questi ritardi, queste multe per ritardi fino a 200 e le multe per chi è senza biglietto. Però forse, guardando la parte più positiva, è appunto che si ricomincia, l'idea è quella di ricominciare a investire nel trasporto pubblico locale qualificandolo. Per quanto riguarda la lettera al risparmiatore, come ogni domenica il nostro collega di finanza Vittorio Carlini si concentra su un titolo quotato. Questa settimana è Panaria, che è un'azienda specializzata in materiali per costruzioni, per ristrutturazioni. Il titolo: Panaria aumenta la capacità produttiva, la sfida è fare più business negli Stati Uniti e in Asia. Naturalmente moltissimi anche commenti alla decisione di indire il famoso referendum sulla Brexit, l'uscita del Regno Unito dalla zona euro, dall'Unione Europea, scusatemi, non dalla zona euro, in cui il Regno Unito non è mai entrato. E poi, richiamate in prima pagina, ma ricordiamocelo ancora, sicuramente lo ricorderanno anche poi domani nella rassegna stampa, mancano 2 giorni alla pubblicazione del corso di educazione finanziaria del Sole 24 Ore. Abbiamo appena finito di parlare di bail-in, il salvataggio delle banche e tutto quello che è successo ai risparmiatori di Banca Etruria e delle altre 3 banche salvate. Appunto, da martedì 23 con il Sole 24 Ore questo corso di educazione finanziaria, per cercare appunto di evitare che succedano ancora inganni ai risparmiatori, come quelli delle obbligazioni secondarie, che hanno causato così tante perdite ai risparmiatori, diciamo, poco informati, nella migliore delle ipotesi ingannati nella peggiore. Ma vi dicevo, alle pagine 2 e 3, l'inchiesta sul bail-in, quindi così l'Europa si divide sul caso bail-in. Ci sono proprio delle schede su Germania, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Svezia e poi Italia, per far capire che cosa significano queste nuove regole per i rispettivi sistemi bancari. La prima pagina del Corriere della Sera ha un titolo titola proprio sulla Brexit: Cameron lancia la sfida. Il Premier ha detto, dopo l'accordo faticosissimamente raggiunto venerdì sera sulle regole che la Gran Bretagna ha chiesto di cambiare per quanto riguarda la sua permanenza nell'Unione Europea, Cameron ha detto: va bene, a questo punto allora fissiamo la data del referendum, il 23 di giugno, e preannuncio che io voterò all'abbandono dell'Unione Europea. Alcuni suoi ministri però hanno già detto: noi invece voteremo sì. Oh, segnalo che da oggi, credo sia la prima volta da quando non è più direttore, cioè da circa un anno, c'è un intervento di Ferruccio De Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, sul Corriere della Sera in prima pagina, un editoriale che parla di debito pubblico e pubbliche amnesie. Perché se ne parla così poco? Sulla questione invece di Bruxelles, della riforma dell'Unione Europea, che si spera forse avrà nuovo impulso da questo referendum indetto in Gran Bretagna, vi segnalo due interventi dalla prima pagina del Corriere della Sera. Uno di Mario Monti, che ha ricoperto ruoli importantissimi nelle istituzioni europee, tra cui commissario all'antitrust, ricorderete forse tutte una delle sue cause più famose, quella contro Microsoft. Il titolo dell'editoriale di Mario Monti: diversi, vicini, così l'Europa tra me e Renzi. Anche perché sapete che spesso e in particolare si è un po' ravvivata per l'ennesima volta questa polemica, purtroppo a distanza, quindi non è un vero confronto, ma appunto preferisco chiamarla polemica, tra Renzi e Mario Monti sulle questioni europee, ma non solo. E poi vi segnalo l'intervento di Carlo Calenda: le medicine di Bruxelles non sono la cura. Carlo Calenda, che è stato e sarà ancora per qualche settimana vice ministro dello sviluppo economico, ma è stato nominato rappresentante permanente italiano presso l'Unione Europea, una sorta di ambasciatore italiano presso l'Unione Europea, che appunto interviene su questo tema. Entrambi gli interventi iniziano in prima pagina e poi continuano alle pagine 26 e 27. Naturalmente anche il richiamo ai vari ricordi di Umberto Eco, e in particolare in prima pagina inizia quello di Claudio Magris, il grande scrittore e amico di Umberto Eco: il mio omaggio al genio di Eco, che sapeva cambiare e ridere. La Repubblica mette in prima pagina un disegno di Tullio Pericoli di Umberto Eco, è un disegno, c'è anche la data del 97, quindi quando Eco aveva ancora quella folta barba che poi a un certo punto si è tagliato. Qui su Repubblica ci sono, non lo so, forse più di 10 pagine ancora su Umberto Eco. Tra l'altro La Repubblica è stata l'unico giornale che già ieri è riuscito a dare molto spazio alla scomparsa di Umberto Eco. Umberto Eco, storico collaboratore del gruppo Repubblica L'Espresso, quindi forse Repubblica aveva anche notizie aggiornate sulle sue condizioni di salute e forse aveva anche pronti quelli che in gergo giornalistico, con un termine non proprio bellissimo, si chiamano coccodrilli, cioè i ricordi, insomma, di persone che non ci sono più e che spesso, quando queste persone non stanno bene, vengono preparati con un certo anticipo. In ogni caso, oggi sotto il disegno di Tullio Pericoli c'è questo titolo: l'ultima lezione di Umberto Eco lascia il segno dell'Italia nel mondo. Vengono richiamati ben 4 pezzi che poi continuano all'interno: lo studioso divertente di Ezio Mauro, ex direttore della Repubblica, il nuovo che verrà di Alessandro Baricco, metafisica del pop di Stefano Bartezzaghi e poi l'intervento del fondatore ed ex direttore di Repubblica Eugenio Scalfari, che questa domenica quindi rinuncia al suo consueto editoriale per scrivere questo ricordo di Umberto Eco, una scomparsa che ci rende tutti più poveri. Poi a fianco il titolo, diciamo, vero e proprio della Repubblica è anche in questo caso dedicato alla Brexit: basta Europa, il patto con l'Unione Europea spacca Londra. Sono già 5 i ministri, abbiamo visto anche sul Corriere viene data questa notizia, che hanno già detto che sono contro Cameron, contro il Premier, quindi una spaccatura nel governo, perché nonostante Cameron abbia strappato quello che secondo molti è un buon accordo sulle regole a cui la Gran Bretagna, il Regno Unito, non dovrà stare, nonostante questo che ha fatto dire a Cameron con questo accordo io sicuramente voterò per restare nell'Unione Europea, e alcuni suoi ministri non sono contenti, non considerano quell'accordo un buon accordo e quindi appunto hanno già annunciato che voteranno contro. La Stampa ha un titolo ancora diverso: mamme e bambini in fuga lungo la rotta dei Balcani, è il titolo che si riferisce a un reportage esclusivo della Stampa che ha ripercorso quello che è uno dei corridoi percorsi dai migranti, appunto la rotta dei Balcani. La fotonotizia però è dedicata al Festival di Berlino e alla vittoria, a proposito di immigrazione, del film Fuoco a mare di Rosi, che è tutto ambientato, come sapete, a Lampedusa. Il Messaggero riferendosi all'accordo sulla offerto alla Gran Bretagna in un certo senso per evitare la Brexit, nasce l'Europa a due velocità. Gran Bretagna al voto, ma sulle concessioni dell'Unione Europea il governo Cameron si spacca, si fa più netto il distacco con i partner aderenti all'euro. E viene anche ricordata il commento di Renzi, che ha detto ora si può riaprire il capitolo crescita, ma soprattutto ha giustamente detto da qui a giugno, da quando ci sarà questo voto in Gran Bretagna, forse è l'occasione per sedersi tutto a un tavolo, magari Gran Bretagna esclusa, per rivedere tutte quelle leggi, quelle regole europee che creano così tanti malumori all'interno dell'Unione. Ci lasciamo un attimo e per una pausa, comprese le notizie sul meteo, ci risentiamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine dei giornali. Il giornale e Libero hanno la stessa apertura, che prende spunto dalla dichiarazione di ieri del prefetto di Treviso, che ha detto pronti a prendere gli appartamenti sfitti dai privati per darli agli immigrati. Allora il giornale titola: ci espropriano le case per darle agli immigrati. Due i ricordi di Umberto Eco che iniziano in prima pagina, non proprio affettuosi, anche perché, come forse molti sanno, Umberto Eco è stato per gli ultimi, diciamo, 20 anni, forse anche di più, uno dei critici più aspri di Berlusconi. Arrivò a dire che se Berlusconi avesse di nuovo vinto avrebbe lasciato il paese, poi non l'ha mai fatto, e quindi però questo era l'umore. Poi sapete che Umberto Eco è anche, quando Mondadori c'è stata la nascita del colosso editoriale Mondazzoli, cioè quando Mondadori ha comprato Rizzoli, all'interno della quale c'è Bompiani, storica casa editrice di Umberto Eco. Umberto Eco se n'è andato insieme a Elisabetta Sgarbi per fondare la casa editrice La Nave di Teseo, quindi diciamo la cesura con Berlusconi, le sue aziende, la sua figura c'è stata fino all'ultimo. Da qui forse anche, appunto, alcune posizioni non ripeto, alcuni accordi non proprio affettuosi o in linea o così elogiativi come quelli di quasi tutti gli altri giornali. Su Il Giornale, Vittorio Feltri: Eco, un intellettuale sempre organico ma solo a se stesso. E poi un articolo interessante, perché comunque, appunto, ripercorre un po' queste dichiarazioni fortemente anti-berlusconiane di Umberto Eco, di Alessandro Gnocchi: Il migliore tra chi si crede migliore. Lo trovate poi a pagina 19 del giornale. Vi dicevo, Libero, stessa apertura: requisiscono le case sfitte per darle agli immigrati. E poi un ricordo di Fausto Carioti di Umberto Eco, con una caricatura che richiama un po' anche l'atmosfera del Nome della Rosa, in assoluto il libro di maggior successo di Umberto Eco, 12 milioni di copie circa vendute nel mondo. Il titolo: La sinistra inquisizione di frate Eco. Mentre l'Unità ha una fotonotizia in alto, con un ritratto di Umberto Eco quando, appunto, aveva ancora la sua folta barba. Il titolo: L'eco mondiale, per un riferimento ai ricordi e all'eco, appunto, che ha avuto la morte di questo grande intellettuale italiano in tutto il mondo. Ma il titolo principale, Mobilitazione straordinaria, è in realtà dedicata al fatto che oggi Renzi ha riunito l'Assemblea Nazionale del PD. Si parlerà probabilmente di moltissime cose: Europa, unioni civili e caso Regeni, di cui ancora oggi si parla sui giornali. Io spero che se ne parli il più a lungo possibile. Purtroppo non ci sono novità di rilievo sulle indagini, continua a esserci mistero fitto sull'assassinio di questo giovane studente, ricercatore italiano che lavorava al Cairo e che lì è stato assassinato dopo essere stato torturato. Il manifesto, L'eco nel mondo, anche in questo caso una grande foto di Umberto Eco, con anche, appunto, un riferimento al fatto di quanta Eco di nuovo abbia avuto la sua scomparsa in tutto il mondo. Il Fatto Quotidiano ha grande spazio in copertina per un ricordo a Umberto Eco, tra l'altro c'è quello in particolare di Furio Colombo, che era un suo grande amico e poi che l'aveva seguito, insomma si erano avviati insieme in questa avventura della nuova casa editrice La Nave di Teseo. Quindi il titolo: Le impronte sulla nostra ultima nave. Ma il titolo principale è dedicato all'inchiesta sulle tangenti sulla sanità in Lombardia, che è scoppiata qualche giorno fa, e sapete, l'argomento delle tangenti è sempre particolarmente odioso, forse lo è ancora di più quando queste tangenti riguardano la sanità. E il Fatto Quotidiano ha tantissimi approfondimenti su questa inchiesta che coinvolge, come sapete, il braccio destro di Maroni, nonché autore del piano, del nuovo piano sulla sanità della regione Lombardia, Rizzi, che è stato arrestato 4 giorni fa. Il titolo: La Lega e il tesoro all'estero. Il titolo, il virgolettato è tratto da un'intercettazione: Se scappi Maroni mi spara. Appunto, le intercettazioni tra il cassiere, quello che viene definito il mago delle scatole cinesi, come anche qui a Radio 24 ho sentito raccontare a Raffaella Calandra. Adesso lo sforzo dei magistrati si concentra non tanto su quei soldi che per certi versi sono comunque tanti, ritrovati a casa di Rizzi nel suo freezer addirittura, ma che sono comunque poche migliaia di euro, ma su dove potrebbero essere finiti all'estero queste tangenti, che potrebbero addirittura essere milionarie. C'è anche un riferimento al fatto che quella che viene definita Lady Dentiera, cioè quell'imprenditrice delle cliniche odontoiatriche nonché medico, che è uno dei principali, anche lei arrestata, è al centro di questa inchiesta, potrebbe appunto, anzi ha detto: datemi penne e block notes perché vuole iniziare a parlare. Un'ultima prima pagina, quella della Gazzetta dello Sport, che l'apertura è dedicata all'anticipo di ieri con la vittoria dell'Inter sulla Sampdoria, però per fortuna, dico io, non solo calcio, il famoso palchettone, cioè appunto quella parte del giornale che è subito sotto la testata, è dedicata alle grandi vittorie nello sci di ieri, e quindi il titolo: Frecce tricolori, Nadia Franchina alla Tuil e Paris a Chamonix, è tutto azzurro il massiccio del bianco. La doppietta in discesa era riuscita in passato soltanto a Christian Ghedina e Isolde Kostner nel 1999, pensate. Ma veniamo alle pagine interne dei giornali, torniamo sul Sole 24 Ore, che ha un approfondimento naturalmente sulla Brexit, che trovate a pagina 5 con l'analisi di Leonardo Maisano, che è il corrispondente da Londra del Sole 24 Ore. Una grande coalizione all'inglese per il sì all'Unione Europea, con l'idea che, come abbiamo visto, se ci sono ministri del governo che si sono già detti contrari che voteranno no al referendum, cioè no alla permanenza del Regno Unito all'interno dell'Unione Europea, Cameron sta cercando appunto una grande coalizione, cioè anche sostenitori al di fuori del suo governo. Ma vi segnalo sempre a pagina 5 un intervento di George Soros, il finanziere, che sapete questa settimana si è anche saputo che ha un'importante partecipazione azionaria nella neoquotata Ferrari. Questa però è un'idea che non c'entra con la finanza. Secondo George Soros potrebbe essere una buona idea lanciare degli euro bond per finanziare l'emergenza migranti, che sennò rischia appunto di essere una bomba a tempo, non solo per la tenuta dell'Unione Europea, ma comunque per in generale il quieto vivere all'interno dell'Unione Europea, e non solo, perché poi le grandi migrazioni non hanno come traguardo soltanto l'Unione Europea. Dalla prima pagina Finanza e Mercati un approfondimento di Marco Ferrando, che fa il punto sui bilanci delle banche. Nel 2015 utili per 6 miliardi, decisivo il fattore rettifiche sui crediti deteriorati, 10,7 miliardi in meno rispetto al 2014. C'è proprio uno schema che ci dà quest'idea del sistema bancario italiano, che si dice sempre è molto solido, sicuramente guardando gli utili al netto appunto di tutte queste rettifiche sui crediti deteriorati. Appunto è un sistema che nel 2015, ripetiamo, ha chiuso il 2015 con utili per 6 miliardi. Dal Corriere della Sera un approfondimento che riguarda gli acquisti delle case. Intanto sentiamo questi dati sui mutui un po' falsati dalla questione delle surroghe, cioè tra chi non istituisce un nuovo mutuo ma semplicemente lo cambia gestore, cambia banca. In ogni caso il mercato immobiliare sembra dare qualche segno di ripresa. In questo approfondimento a pagina 17 del Corriere: meno tasse per comprare casa, imposte ridotte anche se si tiene per un anno il vecchio immobile, acquisto agevolato dal costruttore. Dalle pagine interne di Repubblica un approfondimento su quelle che vengono chiamate le frontiere d'Italia, e soprattutto quindi il Brennero per esempio, ma oltre alle frontiere marine. E poi questo si lega anche alla vittoria, che abbiamo detto, del film di Gianfranco Rosi, Fuoco a Mare, che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, cioè il premio più importante del Festival del Cinema di Berlino. E siccome Rosi ha dedicato il premio proprio a chi a Lampedusa non è mai arrivato perché è morto prima, e agli abitanti di Lampedusa, c'è un'intervista al regista: ho obbligato l'Europa a guardare Lampedusa e il dramma dei migranti. Vi dicevo, Giulio Regeni ancora se ne parla con una bella intervista, oltre ai tentativi di tenerci informati sull'inchiesta, che però, come sapete, è molto difficile perché al Cairo, nonostante ci siano molti rappresentanti italiani, investigatori italiani, sembra esserci pochissima collaborazione da parte delle autorità locali. E su Repubblica un'intervista ai genitori Paola e Claudio Regeni, che raccontano chi era il figlio e si appellano a non infangare il suo nome. Il sogno di Giulio spezzato al Cairo, chi indaga non torni senza tutta la verità. E poi, visto che abbiamo sentito parlare anche di primarie che sono un po' misteriose per noi italiani, per noi europei, le primarie americane, con queste sorprese che stanno venendo dal Partito Repubblicano con il susseguirsi dei trionfi nei vari stati di Donald Trump, e poi con le difficoltà a sorpresa di Hillary Clinton, che all'inizio sembrava avere la strada tutta in discesa verso la nomination a candidato appunto alle elezioni del Partito Democratico. Come sapete, Bernie Sanders, che in pochi qui in Europa avevano sentito nominare prima, definito un socialdemocratico americano, che sta mietendo molti successi, o comunque sta portando via molti consensi a Hillary. E allora alle pagine 16 e 17 la Repubblica, con un reportage dall'America, ci racconta un po' alcune facce di questi militanti che vanno ai vari appuntamenti elettorali. La neomamma e il veterano, i volti dell'America che spera in Bernie Sanders. Un'altra intervista che vi segnalo invece sulla Stampa, al ministro degli esteri turco Cavazoglu: la comunità internazionale fermi gli attacchi sui civili da parte della Russia in Siria, faccia pressione su Mosca per lavorare a una transizione senza Assad. Il virgolettato scelto per titolare questa intervista: la lotta ai jihadisti è una scusa, il problema della Siria è la Russia. Questo il parere della Turchia, che sappiamo essere in fortissimo disaccordo con la Russia su come combattere, su come cercare di porre fine alla guerra, quella che in realtà è la guerra civile in Siria, che dura da più di 3 anni ormai. Ci lasciamo un attimo per una pausa sul traffico. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli, insieme per l'ultima parte della rassegna stampa. Eravamo nelle pagine interne, vi segnalo dall'Avvenire un articolo che si rifà un po' agli ultimi fatti di cronaca, con queste denunce di abusi su anziani, su disabili e bambini, quindi spesso in istituti o nelle scuole. L'allarme delle associazioni raccolto dall'Avvenire: ora maggiori controlli, più verifiche sugli abusi. E poi un curioso reportage da Palermo, dove si sta svolgendo un incontro di formazione in Sicilia, pensate, per gli esorcisti. Il diavolo agisce così: il rischio di una porta lasciata aperta. Fra Benigno Parilla, che si definisce appunto esorcista, ha spiegato in questo seminario che tra le cause dei malefici ci sono le ferite dell'infanzia, l'ipersensibilità che cresce a danno di intelligenza e volontà, l'importanza di una comunità che prega. Interessante questa questione dell'esorcismo, mi piacerebbe sapere cosa ne pensa Papa Francesco. Vi segnalo poi, prima di passare ai supplementi culturali, un'intervista a Sergio Cofferati dal Fatto Quotidiano. Sembrava faticosamente raggiunta l'intesa a Milano per il candidato unico del centrosinistra, ma non è così, perché Sergio Cofferati, europarlamentare, interviene e dice: caro Civati, Beppe Civati, che tra l'altro è uscito dal PD, come forse ricorderete, in polemica aperta con Renzi, è un deputato, Beppe Civati, caro Civati, corri a Milano e la sinistra sarà al tuo fianco, della serie appunto restiamo uniti e non dividiamoci. Ma passiamo alle pagine interne, alle pagine culturali. Cominciamo dalla Domenica del Sole 24 Ore, la copertina è dedicata a Umberto Eco, però come sempre iniziamo dal breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Bere, e la citazione è del poeta Charles Bukowski: perché bevo? Perché non riesco a affrontare la vita quando sono sobrio. Uno dei suoi libri si intitolava Compagni di sbronze ed è noto che Charles Bukowski, scrittore californiano anticonformista e scandaloso, visse alternando la scrittura a colossali bevute e a una sessualità sfrenata, in una sorta di discesa agli inferi degli eccessi. Questa sua frase ha però il sapore di una sincera confessione personale, una dichiarazione che potrebbe essere scritta non solo da tanti alcolisti, ma anche dalla maggior parte dei drogati. È una degenerazione che non rivela una libertà, bensì una schiavitù, che non esprime una liberazione ma una disperazione, che non esalta una sfida ma una sconfitta, che non celebra una scelta ma una paura di vivere. Ed è drammatico che siano soprattutto i giovani ad affidarsi all'alcol e alla droga, apparentemente per mostrarsi indipendenti e sprezzanti, in realtà per narcotizzare il non senso della loro esistenza e la loro incapacità, come confessava Bukowski, ad affrontare la vita da sobri. E il memorandum di Roberto Napoletano si rifà in realtà al memorandum di settimana scorsa, che riprendeva un intervento di un grande riformista del secondo dopoguerra, Vanoni. Adolfo Battaglia ha scritto a Roberto Napoletano, che torna sull'argomento. Il titolo del memorandum è La lezione italiana di un riformismo non ideologico, che il nostro direttore del Sole 24 Ore di Radio 24 si auspica anche per questa seconda fase del governo Renzi, perché sapete che da poco il governo Renzi ha compiuto i primi 2 anni. Ma la copertina vera e propria è dedicata a Umberto Eco, con un disegno di Guido Scarabottolo che lo vede un po' con una pettinatura da frate. Naturalmente il riferimento è ancora una volta al nome della rosa, il nome della nostra cultura, con un ricordo di Armando Massarenti, direttore della Domenica, soprattutto un buon maestro, un autoritratto inedito dello stesso Umberto Eco. E poi altre 4 pagine speciali su Umberto Eco, tra cui anche per esempio un interessante, parlavamo del nome della rosa, un excursus, di una galleria di tutti i paesi in cui è stato e le relative copertine in cui è stato tradotto il nome della rosa, con questo tema della traduzione, dei dilemmi dei traduttori, e un ricordo di Mario Andreose, che è stato l'editor di Umberto Eco, cioè colui che al quale lui affidava probabilmente la prima lettura dei suoi manoscritti per poi accettare ogni tipo di consiglio, e anche un ricordo di Elisabetta Sgarbi, che come dicevamo è il direttore editoriale di questa nuova casa editrice, La Nave di Teseo, di cui Eco era cofondatore. Tra l'altro il suo prossimo libro, Papè Satana Leppe, che è una citazione della Divina Commedia, uscirà a pochi giorni, perché da pochi giorni Umberto Eco aveva detto, visto si stampi va bene così, alla versione definitiva. È in realtà una raccolta di saggi questo libro, ma appunto viene pubblicato postumo, con però alcuni giorni di anticipo. Sempre all'interno del domenicale, un anniversario che riguarda Galileo, perché il 5 marzo del 1616 la Chiesa condannò la dottrina copernicana di Galileo Galilei, e lo scienziato ne difese la dottrina di Copernico. Lo scienziato Galileo Galilei ne difese la verità e si trovò, suo malgrado, nel mezzo di un'aspra disputa religiosa, di Massimo Bucciantini, questo ricordo di Galileo definito l'indisciplinato. Vediamo gli altri supplementi con... un po' purtroppo poco tempo, vi dicevo, sul giornale trovate a pagina 19 questo ricordo un po' appunto non così elogiativo come tanti altri, di Alessandro Gnocchi: fu il migliore della sinistra che si crede sempre migliore. Incarnò alla perfezione la presunta superiorità antropologica dei progressisti sugli altri, rinunciò a capire gli italiani che sognavano una destra liberale, preferendo attaccare il mondo berlusconiano. La lettura del Sole 24 del Corriere della Sera, la copertina come sempre affidata a un artista questa settimana, sono Umberto e Fernando Campana, i due fratelli brasiliani designer. All'interno una bellissima e lunghissima intervista di Vincenzo Trione a Jasper Jones, il pittore americano, uno dei più grandi artisti del Novecento, da anni estraneo a ogni mondanità, si racconta. Colto e controllato, si descrive come un lontano erede di Proust, un cultore della memoria. 4 pagine. pagine appunto sulla lettura. E poi io ho una passione per Marilyn Monroe, ma quindi vi segnalo questo articolo di Ranieri Polese, Manuale di psicopatologie. Due psichiatri rivisitano la vita Marilyn, la diva Marilyn, insonnia, fobie, stress post-traumatico, e diagnosticano uno spettro autistico sotto soglia, quindi l'ennesima insomma dissezione delle difficoltà, della difficoltà di vivere di Marilyn, che con ogni probabilità appunto si è poi suicidata, anche se sulla sua morte, come molti di voi forse sanno, circolano leggende più o meno metropolitane. La Domenica della Repubblica, tutta dedicata sostanzialmente alla fenomenologia di Umberto Eco, con tantissimi ricordi di Alberto Arvasino, Alberto Arzorrosa, Corrado Augias, Nanni Balestrini, quelli che abbiamo citato prima dalla prima pagina, Alessandro Baricco, Stefano Bartezzaghi, Zygmunt Bauman, perché appunto della Repubblica, del gruppo L'Espresso, Umberto Eco è sempre stato un collaboratore, quindi da qui forse anche questa quantità di articoli. Anche il supplemento del Messaggero Macro è dedicato a Super Eco, definito lo speleologo del futuro, con questo lungo ricordo di Mario Aiello. E dal Messaggero però vi segnalo anche, ultimissima segnalazione, l'anticipazione su un libro di Belli, il grande poeta dialettale. Il libro è di Alessandro Barbero, che tiene oggi a Roma una lezione all'auditorium appunto sui sonetti del poeta, La Roma feroce di Belli. Era l'ultima segnalazione per oggi. Un grazie a Carmelo Lauricelli in regia. Ancora una buona domenica a tutti da Giulia Crivelli.